6 A. Ascolta e rispondi. Lavorerai domani? Sì, lavorerò. Tornerai domani? Sì, tornerò domani. Inviterai tutti? Sì, inviterò tutti. Incontrerai Sofia? Sì, incontrerò Sofia. Ragazze, comprerete il giornale? Sì, compreremo il giornale. Ragazzi, guiderete voi? Sì, guideremo noi. Signori, cenerete in giardino? Sì, ceneremo in giardino. Signore, pranzerete tardi? Sì, pranzeremo tardi.